Ad alta voce, Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem, di Emilio Salgari. Capitolo 23. Yanez alla villa. La missione del portoghese era senza dubbio una delle più arrischiate, delle più audaci che quel bravo uomo avesse affrontato in vita sua, perché sarebbe bastata una parola, un sospetto solo per lanciarlo sulla cima di un'antenna con una buona corda al collo. Non di meno il pirata si preparava a giocare la pericolosissima carta con grande coraggio e con molta calma, fidando nel proprio sangue freddo e soprattutto nella sua buona stella che mai era si stancata di proteggerlo. Si rizzò fieramente in sella, si arricciò i baffi per fare più bella figura, si accomodò il cappello inclinandolo civettosamente sull'orecchio e spinse il cavallo alla carriera non risparmiando i colpi di sonore. Dopo 2 ore di quella corsa faticosa si trovava improvvisamente dinanzi ad una cancellata dietro la quale si elevava la graziosa villa di Lord James. «Chi vive?» chiese un soldato che stava imboscato dinanzi al cancello nascosto dietro il tronco di un albero. «Ehi, giovinotto, abbassa il fucile che io non sono né una tigre né un babirussa», disse il portoghese, rattenendo il cavallo. «Per Giove, non vedi che io sono un tuo collega, anzi un tuo superiore? Scusate, ma ho l'ordine di non lasciare entrare nessuno senza sapere da parte di chi viene e cosa desidera. Animale, io vengo qui per ordine del baronetto William Rosenthal e mi reco dal Lord. Passate». Aprì il cancello, chiamò alcuni camerati che passeggiavano nel parco per avvertirli di ciò che accadeva e si fece da una parte. Fe il portoghese stringendosi nelle spalle e spingendo innanzi il cavallo, quante precauzioni e quanta paura regna qui. Si fermò dinanzi alla palazzina e balzò a terra fra 6 soldati che lo avevano circondato coi fucili in mano. «Dov'è il Lord?» chiese egli. «Nel suo gabinetto», rispose il sergente comandante del drappello. «Conducetemi subito da lui che mi preme di parlargli. Venite da Vittoria?» «Precisamente. E non avete incontrato i pirati di Mompracem?» «Nemmeno uno, camerata. Quei furfanti hanno ben altro da fare in questo momento che ronzare qui. Orsù, conducetemi dal Lord. Venite». Il portoghese fece appello a tutta la sua audacia per affrontare il pericoloso uomo e seguì il comandante affettando la calma e la rigidezza della razza anglosassone. «Aspettate qui», disse il sergente dopo averlo fatto entrare in un salotto. Il portoghese, rimasto solo, si mise a osservare attentamente tutto per vedere se era possibile un colpo di mano. Ma dovette convincersi che ogni tentativo sarebbe stato inutile, essendo altissime le finestre e grosse le muraglie e le porte. «Non importa», mormorò, «il colpo lo faremo nel bosco». In quel momento rientrava il sergente. «Il Lord vi aspetta», disse additandogli la porta lasciata aperta. Il portoghese si sentì correre per le ossa un brivido e impallidì un po'. «Yanez mio, sii prudente e saldo», mormorò. Entrò con la mano dritta sul cappello e si trovò in un grazioso gabinetto, arredato con molta eleganza. In un angolo, seduto dinanzi ad un tavolo da lavoro, stava il Lord, vestito semplicemente di bianco, col volto tetro e lo sguardo corrucciato. Egli guardò in silenzio Yanez figgendogli gli occhi addosso come se volesse indagare i pensieri del nuovo venuto, poi disse con accento secco: «Venite da Vittoria?» «Sì, milord», rispose Yanez con voce ferma. «Da parte del baronetto?» «Sì». «Vi ha dato qualche lettera per me?» «Nessuna». «Avete da dirmi qualche cosa?» «Sì, milord». «Parlate». «Mi ha mandato a dirvi che la tigre della Malesia è circondata dalle truppe in una baia del sud». Il Lord balzò in piedi con gli occhi sfavillanti e il viso raggiante. «La tigre circondata dai nostri soldati», esclamò. «Sì, e pare che sia finita per sempre per quel furfante, poiché non ha più scampo». «Ma siete ben certo di quello che dite?» «Certissimo, milord». «Chi siete voi?» «Un parente del baronetto William», rispose Yanez audacemente. Ma da quanto tempo vi trovate a Labuan? Da 15 giorni. Voi, adunque, saprete anche che mia nipote è la fidanzata di mio cugino William, disse Yanez sorridendo. Ho molto piacere di fare la vostra conoscenza, signore, disse il Lord, stendendogli la mano, ma ditemi, quando venne assalito Sandokan? Stamane, all'alba, mentre attraversava un bosco alla testa di una grossa banda di pirati. Ma quell'uomo è adunque il demonio. Ieri sera era qui. Possibile che in 7 o 8 ore abbia percorso tanta strada? Si dice che avesse dei cavalli con sé. E ora comprendo. E dov'è il mio buon amico William? È alla testa delle truppe. Eravate assieme a lui? Sì, milord. E sono molto lontani i pirati. Una decina di miglia. Vi ha dato nessun altro incarico? Mi ha pregato di dirvi di abbandonare subito la villa e di portarvi senza indugio a Vittoria. Perché? Voi sapete, milord, che razza d'uomo è la tigre della Malesia. Ha con sé 80 uomini, 80 tigrotti e potrebbe vincere le nostre truppe, attraversare in un baleno i boschi e gettarsi sulla villa. Il lord lo guardò in silenzio come se fosse stato colpito da quel ragionamento. Poi disse, come parlando a se stesso, «Infatti, ciò potrebbe accadere. Sotto i forti e le navi di Vittoria mi sentirei più sicuro di qui. Quel caro William ha proprio ragione, tanto più che la via per il momento è libera. Mia signora nipote, ve la strapperò io la passione che avete per quell'eroe da forca. Dovessi spezzarvi come una canna, mi obbedirete e sposerete l'uomo che vi ho destinato». Yanez portò involontariamente la mano all'elsa della sciabola, ma si trattenne ben comprendendo che la morte del feroce vecchio a nulla avrebbe giovato con tanti soldati che si trovavano nella villa. «Milord», disse invece, «mi permettereste di visitare la mia futura parente? Avete qualche cosa da dirle da parte di William?» «Sì, milord». «Vi accoglierà male?» «Non importa, milord», rispose Yanez sorridendo, «io le dirò ciò che mi disse William, poi tornerò subito qui». Il vecchio capitano premé un bottone, un servo subito entrò. «Conducete questo signore da Milady», disse il lord. «Grazie», rispose Yanez. «Cercate di convincerla e poi raggiungetemi, che pranzeremo assieme». Yanez si inchinò e seguì il servo che lo introdusse in un salotto tappezzato in azzurro e ornato da un gran numero di piante che espandevano dall'intorno deliziosi profumi. Il portoghese lasciò che il servo uscisse, poi si inoltrò lentamente e attraverso le piante che trasformavano quel salotto in una serra scorse una forma umana coperta da una candida veste. Egli, quantunque preparato a qualunque sorpresa, non poté frenare un grido di ammirazione dinanzi a quella splendida giovanetta. Ella era coricata in una posa graziosa, con un abbandono pieno di malinconia, su una ottomana orientale, dalla cui serica stoffa scaturivano sprazzi d'oro. Con una mano si sosteneva la testolina, da cui cadevano come pioggia d'oro quegli stupendi capelli che formavano l'ammirazione di tutti, e con l'altra nervosamente i fiori che le stavano vicini. Era tetra, pallida, e i suoi occhi azzurri, ordinariamente così tranquilli, mandavano lampi che tradivano la collera mal repressa. Vedendo Yanez avanzarsi, ella si scosse, passandosi una mano sulla fronte a più riprese, come se si risvegliasse da un sogno, e fissò su di lui uno sguardo acuto. «Chi siete voi?» chiese con voce fremente. «Chi vi ha data la libertà di entrare qui?» «Il Lord, milady», rispose Yanez, che divorava con gli occhi quella creatura che trovava immensamente bella, più di quanto gliel'aveva descritta Sandokan. «E che volete da me?» «Una domanda, prima di tutto», disse Yanez, guardandosi attorno per assicurarsi che erano proprio soli. «Parlate. Credete che nessuno possa udirci?» Ella corrugò la fronte e lo guardò fisso, come se volesse leggergli nel cuore, indovinando il motivo di quella domanda. «Siamo soli», rispose dopo. «Ebbene, milady, io vengo da assai lontano». «Da dove?» «Da Montbracem». Marianna balzò in piedi come spinta da una molla e il suo pallore scomparve per incanto. «Da Montbracem», esclamò arrossendo. «Voi, un bianco, un inglese...» «V'ingannate, Lady Marianna, io non sono inglese, io Sono Yanez. Yanez, l'amico, il fratello di Sandokan. Ah, signore, quale audacia entrare in questa villa. Ditemi, dov'è Sandokan? Che fa egli? Si è salvato o è ferito? Parlatemi di lui. Oh, voi mi fareste morire. Abbassate la voce, milady. Le pareti possono avere degli orecchi. Parlatemi di lui, parlatemi del mio Sandokan. Egli è vivo ancora, più vivo di prima, milady. Siamo sfuggiti all'inseguimento dei soldati senza troppa fatica e senza riportare ferite. Sandokan ora si trova imboscato sul sentiero che mena a Vittoria, pronto a rapirvi. «Ah, Dio mio, quanto vi ringrazio di averlo protetto!» esclamò la giovinetta con le lacrime agli occhi. «Ascoltatemi ora, milady. Parlate, mio prode amico. Io sono qui venuto per decidere il Lord ad abbandonare la villa e ritirarsi a Vittoria. A Vittoria, ma giunti là... come mi rapirete? Sandokan non aspetterà tanto, milady, disse Yanez sorridendo. È imboscato coi suoi uomini, assalirà la scorta e vi rapirà appena fuori dalla villa. E mio zio? Lo risparmieremo, ve lo assicuro. E mi rapirete? Sì, milady. E dove mi condurrà Sandokan? Alla sua isola. Marianna chinò il capo sul petto e tacque. Milady, disse Yanez con voce grave, non temete. Sandokan è uno di quegli uomini che sanno far felice la donna che amano. Fu uomo terribile e crudele anche, ma l'amore lo ha cambiato e vi giuro, signorina, che mai vi pentirete di essere diventata la moglie della tigre della Malesia. Vi credo, rispose Marianna. Che importa se il suo passato fu tremendo, se ha immolato vittime a centinaia, se ha commesso vendette atroci, egli mi adora. Egli farà per me tutto ciò che io gli dirò. Io farò di lui un altro uomo. Io abbandonerò la mia isola. Egli abbandonerà la sua Monpracem. Andremo lontani da questi mari funesti, tanto lontani da non udirne più mai parlare. In un angolo del mondo dimenticati da tutti, ma felici, noi vivremo assieme e nessuno saprà mai che il marito della perla di Labuan è l'antica tigre della Malesia, l'uomo dalle leggendarie imprese, l'uomo che ha fatto tremare regni e che ha versato tanto sangue. Sì, io sarò la sua sposa, oggi, domani, sempre, e l'amerò sempre. Divina Lady, esclamò Yanez, cadendo alle sue ginocchia, ditemi cosa posso fare per voi pur di liberarvi e di condurvi da Sandokan, dal mio buon amico, dal mio buon fratello. Avete fatto fin troppo venendo qui e vi serberò riconoscenza fino alla morte. Ma ciò non basta, bisognerà decidere il Lord a ritirarsi a Vittoria per dar campo a Sandokan di agire. Ma se io parlo, mio zio, che è diventato estremamente sospettoso, temerà qualche tradimento e non abbandonerà la villa. Avete ragione, adorabile milady, ma credo che ormai abbia deciso di lasciare la villa e di ritirarsi a Vittoria. Se ha qualche dubbio, cercherò io di farlo risolvere. State in guardia, signor Yanez, perché egli è assai diffidente e potrebbe fiutare qualche cosa. Siete un bianco, è vero, ma quell'uomo forse sa che Sandokan ha un amico dalla pelle pallida. Sarò prudente. Vi aspetta il Lord? Sì, milady, mi ha invitato a cena. Andateci, onde non si metta in sospetto. E voi verrete? Sì, ritornateci, ci vedremo. Addio, milady, disse Yanez, baciandole cavallerescamente la mano. Andate, nobile cuore. Io non vi dimenticherò mai. Portoghese uscì come ubriaco, abbagliato da quella splendida creatura. Per Giove, esclamò dirigendosi verso il gabinetto del Lord, non ho mai veduto una donna così bella, e davvero che comincio a invidiare quel briccone di Sandokan. Il Lord l'attendeva, passeggiando innanzi e indietro con la fronte aggrottata e le braccia strettamente incrociate. Ebbene, giovinotto, che accoglienza vi ha fatto mia nipote? Chiese con voce dura e ironica. Pare che non ami udire parlare di mio cugino William, rispose Yanez. Poco mancò che mi scacciasse. Il lord crollò il capo e le sue rughe divennero profonde. Sempre così. Sempre così, mormorò coi denti stretti. Si rimise a passeggiare rinchiuso in un silenzio feroce, agitando nervosamente le dita, poi fermandosi dinanzi a Yanez che lo guardava senza far notare di chiedere: cosa mi consigliate di fare? Vi ho già detto, milord, che la migliore cosa da farsi è quella di andare a Vittoria. È vero. Credete voi che mia nipote possa un giorno amare William? Gli domandò. E lo spero, milord, ma bisogna prima che la tigre della Malesia muoia, rispose Yanez. Riusciranno a ucciderla, e la banda è circondata dalle nostre truppe, e William le comanda. Sì, è vero, l'ucciderà o si farà uccidere da Sandokan, lo conosco quel giovanotto, è destro e coraggioso. Tacque ancora e si mise alla finestra guardando il sole che lentamente tramontava. Rientrò dopo pochi minuti dicendo: «Voi dunque mi consigliate di partire?» «Sì, milord», rispose Yanez. «Approfittate della buona occasione per abbandonare la villa e rifugiarvi a Vittoria. E se Sandokan avesse lasciati alcuni uomini imboscati nei dintorni del parco? Mi hanno detto che v'era con lui quell'uomo bianco che si chiama Yanez, un audace che forse non la cede la tigre della Malesia?» «Grazie del complimento», mormorò in cuor suo Yanez, facendo uno sforzo supremo per trattenere le risa, poi guardando il lord disse: «Voi avete una scorta sufficiente per respingere un attacco. Prima era numerosa, ma ora non lo è più. Ho dovuto rimandare al governatore di Vittoria molti uomini, avendone lui urgente bisogno. Voi sapete che la guarnigione dell'isola è molto scarsa. Questo è vero, milord». Il vecchio capitano si era rimesso a passeggiare con una certa agitazione. Pareva che fosse tormentato da un grave pensiero o da una profonda perplessità. Ad un tratto si avvicinò bruscamente a Yanez chiedendogli: «Voi non avete incontrato nessuno venendo qui, è vero?» «Nessuno, milord». «Non avete notato nulla di sospetto?» «No, milord». «Quindi si potrebbe tentare la ritirata?» «Lo credo». «Eppure dubito». «Che cosa, milord?» «Che tutti i pirati siano partiti». «Milord, io non ho paura di quei furfanti. Volete che faccia una gita nei dintorni?» «Ve ne sarei grato. Volete una scorta?» «No, milord. Preferisco andarmene solo. Un uomo può cacciarsi anche in mezzo ai boschi senza attirare l'attenzione dei nemici, mentre più uomini difficilmente potrebbero sfuggire a una sentinella vigilante». «Avete ragione, giovinotto. Quando partirete?» «Subito. In un paio d'ore si può fare molto cammino. Il sole è prossimo al tramonto. Non avete paura?» «Quando sono armato non temo chi che sia». «Buon sangue quello dei Rosenthal», mormorò il lord. «Andate, giovinotto. Io vi aspetto a cena». «Ah, milord, un soldato. Forse che non siete un gentleman. E poi, fra breve, noi possiamo diventare parenti». «Grazie, milord», disse Yanez. «Fra un paio d'ore sarò di ritorno». Salutò militarmente, si mise la sciabola sotto il braccio e scese flemmaticamente le scale inoltrandosi nel parco. «Andiamo a cercare Sandokan», mormorò quando fu lontano. «Diamine, bisogna accontentare il lord». «Vedrai, mio caro, che esplorazione farò io. Puoi essere certo fin d'ora che io non avrò incontrato nemmeno una traccia di pirati, per Giove che magnifica Germinella. Non credevo che dovesse avere una così superba riuscita. La cosa non andrà tanto liscia, ma quel birbone di mio fratello sposerà la fanciulla dai capelli d'oro, per Bacco. Non era mica di cattivo gusto l'amico. Non ho mai veduto una ragazza così bella e così graziosa. Ma dopo cosa accadrà? Povera Montbracem, ti vedo in pericolo. Orsù, non pensiamoci. Se tutto dovesse finire male, andrò a finire la mia vita in qualche città dell'estremo oriente, a Canton o a Macao, e darò un addio a questi luoghi». Quando il bravo portoghese aveva attraversata una parte del vasto parco, fermandosi dinanzi a uno dei cancelli, un soldato stava di sentinella. «Aprite, mio amico», disse Yanez. «Ripartite, sergente». «No, vado a esplorare i dintorni». «E i pirati?» «Non ve ne sono più da queste parti». «Volete che vi accompagni, sergente?» «È inutile. Sarò di ritorno fra un paio d'ore». Uscì dal cancello e s'avviò sul sentiero che conduceva a Vittoria finché fu sotto gli sguardi della sentinella. Procedette lentamente, ma appena si trovò protetto dalle piante, affrettò il passo, cacciandosi in mezzo agli alberi. Aveva percorsi 1000 passi quando vide un uomo slanciarsi fuori da un cespuglio e chiudergli il passo. Un fucile lo prese subito di mira mentre una voce minacciosa gli gridava «Arrenditi o sei morto!» «Non mi si conosce più, adunque?» chiese Yanez levandosi il cappello. «Non hai buona vista, mio caro Paranoa?» «Il signor Yanez!» esclamò il malese. «In carne ed ossa, mio caro! Cosa fai qui così vicino alla villa di Lord Gilong?» «Spiavo la cinta. Dov'è Sandokan?» «Ad 1 miglio da qui. Abbiamo buone nuove, signor Yanez?» «Migliori non potrebbero essere. Cosa devo fare, signore?» «Correre da Sandokan e dirgli che l'aspetto qui. Contemporaneamente, o dovrei andare a Giubiloco e allestire il prao. Partiamo? Forse questa notte. Corro subito. Un momento. Sono giunti i 2 praos?» «No, signor Yanez, si comincia a temere che si siano perduti. Per Giove tuonante, abbiamo poca fortuna con le nostre spedizioni. Va, avremo uomini bastanti per sgominare la scorta del Lord. Va, Paranoa, e sii lesto. Sfido un cavallo.» Il pirata partì con la velocità di una freccia. Yanez accese una sigaretta, poi si sdraiò sotto una superba areca fumando tranquillamente. Non erano trascorsi 20 minuti quando vide avanzarsi a passo accelerato Sandokan. Era accompagnato da Paranoa e da 4 altri pirati armati fino ai denti. «Yanez, amico mio!» esclamò Sandokan precipitandoglisi incontro. «Quanto ho tremato per te! L'hai veduta? Parlami di lei, fratello mio, raccontami. Io ardo dalla curiosità.»